benvenuto a tutti noi. Avevo preparato questo discorso, ma voglio dare il benvenuto a tutti noi. Mi dirò che è accaduto, mi dirò comunque questo, mi dirò che è accaduto. Voglio dare il benvenuto a tutti voi. Avevo preparato questo discorso, ma voglio dare il benvenuto a tutti voi. Avevo preparato questo discorso, ma mi dirò che è accaduto, mi dirò comunque questo, mi dirò che è accaduto. Voglio dare il benvenuto a tutti noi.